la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon inizio di settimana in questo lunedì 1° di dicembre, quindi anche buon inizio del mese. Sono le 16.36, primi 22 secondi, Oscar Giannino vi saluta, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar, @radio24.it. La trasmissione di oggi, se volete chiamare 800 24 00 24, è destinata soprattutto a chi opera, lavora, presta servizio come volontario nel mondo del terzo settore italiano, quindi stiamo parlando di chi si occupa di dare tempo della propria vita, risorse professionali, grande disponibilità per assistere comunque i deboli, perché stiamo parlando di malati, anziani, chi è affetto da patologie, eccetera eccetera, e lo fa su una base non solo di volontariato, ma di anche di un principio non profittevole, cioè mette a disposizione per costruire capitale sociale, che è uno dei fondamenti della fiducia in qualunque comunità ed è anche un fondamento poi della crescita economica. Più elevato il capitale sociale e più la fiducia reciproca, più la coesione reciproca, meglio va l'economia. Però lo fa su una base esplicita, scelta volontariamente, che è quella di non perseguire il lucro, ma di perseguire il sostegno agli altri. Allora, chi opera in questo settore o chi ne beneficia, e quindi stiamo parlando di alcuni milioni di italiani, con la legge di stabilità ricevono una sorpresa negativa, purtroppo, perché tra i tanti aggravi d'imposta che ci sono, oltre agli sgravi, gli 80 euro, il taglio all'IRAP per la componente lavoro, però ci sono anche degli aggravi d'imposta, e in questi aggravi d'imposta, in particolare uno dei più severi, oltre alla tassazione retroattiva dei fondi di previdenza, e pare che adesso in Senato questa tassazione si accingano a diminuirla un po' rispetto alla stangata che era prevista, speriamolo, ce n'è una che invece parrebbe fino a questo momento perdurare nella legge di stabilità, e questa stangata è proprio per il terzo settore. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che nella legge di stabilità c'è un innalzamento verticale della base imponibile di uno dei flussi che più contribuiscono alla sostenibilità del terzo settore. Cioè si dispone che dal 2015 la tassazione sui dividendi dei soggetti del terzo settore, recepiti dai soggetti del terzo settore, passi dal 5%, come è stata fino a questo momento, al 77% di questi dividendi. Quindi c'è un innalzamento repentino che segue quello degli ultimi anni, tale per cui dalle fondazioni bancarie, e non solo dalle fondazioni bancarie, dai trust che operano nel terzo settore e finanziano il terzo settore, l'aumento complessivo stimato del gettito passa in pochissimi anni, dal 2012 a oggi, pensate, da più o meno 170 milioni di euro l'anno nel 2015 a 360 milioni di euro l'anno. Naturalmente l'effetto sarà una diminuzione più che proporzionale degli stanziamenti che questi soggetti e delle erogazioni che questi soggetti fanno a tutto il complesso mondo no profit del terzo settore. Allora, questa scelta è una scelta, lo sappiamo bene, lo Stato è assetato, bisogna che tornino i conti, l'Europa, tutto quello che volete voi. Però dopo anni in cui di volta in volta raccontiamo che il welfare pubblico da solo non ce la fa, che il terzo settore è fondamentale, che è una delle componenti del punti di forza tradizionali e secolari del nostro paese, questa attività di alcuni milioni di italiani che si danno da fare per gli altri, non per profitto, questo schiaffo in faccia è uno schiaffo molto pesante, che contraddice tutti i convegni che si fanno in cui si elogia invece il mondo del volontariato sociale. Tenete conto che poi, a dirlo, io sono uno molto critico delle fondazioni bancarie, ma sono critico per le fondazioni bancarie che ancora esercitano il controllo delle banche e non dovrebbero farlo per legge istitutiva iniziale, quella di Dini. La cosa che non credo giusta per niente è colpire le fondazioni bancarie per il ruolo improprio, secondo me, che esercita ancora nel controllo di grandi banche quotate, ma colpirle invece su quello che si tradurrà in un ceffone a ciò che le fondazioni dovrebbero fare sempre di più e sempre meglio, cioè stanziare sempre di più del proprio reddito, dalla gestione del proprio patrimonio, derivante dal proprio patrimonio, soprattutto alle erogazioni sociali sul territorio e quindi al terzo settore. Quindi figuratevi, io sono un critico, però mi pare che questa sia una scelta molto sbagliata. Per parlare di questo argomento, però per farlo in una maniera... per entrare nel vivo e farci spiegare che cosa davvero significano le attese deluse e che cosa può venirne in meno da questa decisione fiscale, sempre che il Senato la confermi dopo il voto della Camera, e noi speriamo di no, per questo facciamo questa trasmissione, abbiamo chiamato uno tra coloro che più con passione si è rivolto al Presidente del Consiglio sperando di indurlo a una riflessione, cioè trovate un'altra posta di entrata, ma non questa. E lo ha fatto sul Corriere della Sera qui a Milano, e lo abbiamo invitato per questo ai nostri microfoni, Don Gino Rigoldi. Don Gino Rigoldi è cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano. Buon pomeriggio e grazie, Don Rigoldi, di essere con noi. Sono qui a guardare il mio carcere dagli uffici. Ecco, innanzitutto stima e comprensione per quello che fa, per chi sta nel carcere Beccaria, perché credo che abbia molto bisogno di persone come lei. Concretamente, questo taglio, lei come se lo spiega, come lo vive, che cosa ne può ricavare il cittadino qualunque? Ma io ho capito che Renzi vuole colpire le banche, e in maniera poi indiretta, perché purtroppo c'è questa associazione tra fondazioni bancarie e banche, che è una cosa impropria, perché è giusto, quando le fondazioni controllano le banche non va bene, abbiamo visto i disastri del Monte Paschi, ma quando le fondazioni devolvono tutto il reddito del loro capitale per il sociale, per la cultura, per la ricerca e comunque per altre imprese che sono in calo, che sono in grande deficit di risorse per via dei tagli che lo Stato e le regioni e i comuni di conseguenza fanno, allora finisce che noi 30 milioni in meno vorrà dire che il sociale, che è largamente sostenuto dalla Fondazione del Carico, anche in Lombardia, la Lombardia è una regione ricca, certo, ma qui abbiamo anche delle grandi povertà, dei grandi vuoti e anche delle grandi risorse di nuovi interventi per chi ha bisogno. Vuol dire 30 milioni in meno che vanno nel sociale, nella ricerca, nella culturale della regione Lombardia, semplicemente perché il capitale non deve essere toccato, i redditi sono quelli che vanno sempre nel terzo settore e questi vengono tagliati, e sarà una botta pesante, perché tutti sanno che il Comune di Milano è in grande affanno, che la regione Lombardia fa fatica a seguire il rinforzo della Cariplo è determinante, ma poi c'è una cosa in più: noi non soltanto finanziamo, aiutiamo gli enti a sostenere i servizi che ci sono, ma ne inventiamo anche di nuovi. Io ho indicato in quell'articolo sul Corriere, per esempio, l'abita giovane, l'housing sociale. Io ho in mente anche di continuare adesso, per esempio, a fare un altro migliaio di appartamenti, perché coinvolgendo anche gli enti ecclesiastici che ci stanno potremmo far partire altri 1000 appartamenti a un affitto che è un quarto di quello che pagano i giovani, avrebbero lo stesso affitto delle case popolari, 300 euro al mese. Abbiamo in mente che sono usciti per lo svuota carcere in Lombardia circa 4.500 detenuti, facciamo il conto che 1.000-1.500 avevano un posto dove andare, 3.000 sono nel nulla, se noi non interveniamo per avviarli un percorso lavorativo di formazione, questi qui restano nel nulla, e chi lo fa? In proprio l'ente pubblico partecipa, ma non è per l'ente pubblico tempo di grandi progetti, di grandi fantasie, ovviamente lo facciamo noi che abbiamo le fantasie. E poi alla ricerca di qualunque tipo di risorse, e beh, tutto questo finisce, tutto questo si ferma, e non è il finire di qualcosa che se c'è o non c'è, poi è la stessa cosa, lì ci va di mezzo le persone, ci sono le disperazioni che non trovano più una risposta. Questo è il guaio, l'appello che ho fatto al Presidente del Consiglio, perché vede, lui forse ha sentito parlare di queste cose, io le vedo con i miei occhi, e abbiamo un altro sentimento. Io posso dirle una cosa, io spero davvero che al Senato questa cosa venga modificata. Tra l'altro mi sono permesso anche come giornalista di parlare con qualche parlamentare della maggioranza, a cominciare dal PD. Nel PD c'è storicamente una certa sensibilità verso questa cosa. Io penso anche che il Presidente del Consiglio, per la sua stessa storia personale di scout, insomma nella Gesci, dovrebbe averla una sensibilità di questo tipo. Lei non pensa? Io credo che sì, uno scout, io sono stato anche un assistente scout, tra l'altro ho fatto le mille cose, questa attenzione, e poi io capisco che ci sono, credo che è possibile che ci siano delle fondazioni che hanno l'elenco dei clienti, no? Certo. Ma questo è il compito del governo, verificare che il comportamento sia adeguato ed onesto, ma quelli che invece si può verificare che sono erogatori e intelligenti, anche promotori di interventi sociali nuovi, beh, questi non devono mica essere mortificati. Guardi, ho visto che Guzzetti ha fatto oggi, sempre sul Corriere, una proposta interessante. Lui dice: mettiamoci insieme per fare un'impresa grande. Io ho subito l'idea che i giovani possono sposarsi, che possono permettersi il lusso di avere un figlio, diamogli delle case belle a un affitto accessibile. Vi parlavo di 300 euro al mese di affitto. Possiamo farlo, perché con Abita Giovani noi le diamo in conto vendita, ma sono 500 euro al mese, ma in conto vendita, e abbiamo i conti in ordine, perché io non vorrò mai fare del bene a spese di qualcun altro. Certo. No, abbiamo i conti in ordine. Volete 30 milioni? Mettiamo 30 milioni a fare in Lombardia, dove volete, insomma, case per le giovani coppie fatte con quello stile lì dell'housing sociale, che chiede, che dà casa e chiede che siano costruttori anche di cortili, cioè di relazioni, di gruppo, che poi si aiuta per la spesa comune, per quello dei bambini. Facciamo una grande impresa insieme, lo Stato e le fondazioni. Mi rendo conto, è un'alternativa un po' così. Io ho vissuto, so che il presidente Guzzetti è molto appassionato, forse ha detto queste cose anche per, direi quasi per proporre un'alternativa, ma anche questa è un'alternativa piuttosto ragionevole, piuttosto di grandissima utilità, tra l'altro, perché la cosa più tremenda che io vedo in Italia è che giovani coppie, i ragazzi non possono permettersi il lusso di avere un figlio, ma questo è un pasticcio, è una vergogna. Beh, sì, devo dire, ne abbiamo parlato anche noi sabato in trasmissione Conte della Belva. Devo dire la verità, io quando sento la passione e la competenza con cui Don Gino Rigoldi, come tanti altri che stanno negli enti erogatori, perché Don Gino Rigoldi sta nella Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo, parlare di interventi sociali, faccio riflettere chi è in ascolto. Per esempio, oggi noi abbiamo da 2 anni la Cassa Depositi e Prestiti, in uno dei diversi fondi che partecipa, ha varato una disponibilità per l'housing sociale. L'housing sociale significa, dopo il blocco di tanti anni di case popolari, case rivolte per la loro stessa costruzione, realizzazione eccetera, a soddisfare la domanda di chi ha bassissimo reddito, italiani, non solo italiani, immigrati e così via. Allora, pensate, ci sono quasi 1 miliardo di risorse disponibili che il pubblico, per i suoi ritardi, il problema dei comuni del patto di stabilità interna, malgrado ci siano 1 miliardo quasi di risorse disponibili, l'housing sociale non riesce a realizzarlo. Io sono convinto che quelli come Don Rigoldi, invece, direttamente nel terzo settore con le erogazioni, essendo molto più snelli e avendo a cuore davvero la realizzazione di questi progetti, potrebbero farlo. Mi chiedo se è possibile che al Senato ci sia un ripensamento, e me lo auguro davvero, perché non c'entra la polemica politica col colore del governo, c'entra una visione di società, e secondo me chi si dà da fare nel terzo settore dovrebbe essere considerato prioritario rispetto al fatto che lo Stato ha i soldi e non riesce a spenderli perché non è capace di farlo rispetto ai tempi terrificanti che ha. Torniamo tra 60 secondi, siamo in ritardo con l'appuntamento per l'informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:50, primi 51 secondi. Stiamo parlando di uno degli aggravi fiscali nella legge di stabilità, che colpisce soprattutto le fondazioni bancarie, le colpisce però diminuendo la possibilità per loro di erogare al terzo settore. E con noi uno di coloro che più ha tentato di far riflettere la politica, e lo faremo fino a che non c'è il via definitivo alla legge di stabilità, cioè Don Gino Rigoldi, il cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano. Abbiamo qui qualche parola del Presidente del Consiglio, proprio rivolta al mondo di cui stiamo parlando oggi, un mondo che purtroppo deve temere le conseguenze di questi tagli. Sentiamo che cosa ha detto Renzi. Che noi non accettiamo l'idea che l'Italia sia un paese fatto soltanto da un insieme di codici fiscali. Noi pensiamo che l'Italia sia fatta da donne e uomini che hanno qualcosa da dire, da dare. Noi pensiamo che guardando negli occhi le persone ci siano dei valori, per cui se c'è una cosa che ha tenuto in piedi oggi il nostro sistema, nonostante la crisi terribile dell'occupazione che c'è stata, è la capacità di intessere relazioni, di avere un volontariato e un associazionismo forte. Ecco, queste parole risalgono qualche mese fa, quando sembrava che il governo avesse in cantiere o pronto già sul tavolo una norma generale rivolta al terzo settore, a semplificargli la vita, ad alcuni incentivi aggiuntivi e così via. Poi la sorpresa invece con la legge di stabilità. Don Rigoldi, c'è la possibilità secondo lei di nutrire fiducia? Che tipo di risposta avete avuto? Beh, intanto la risposta diretta nessuna, ma poi lo cercherò da Del Rio, con il quale ho un rapporto. Ma il governo effettivamente ha messo, mi pare, 200 milioni sulla cifra, sulla quantità di denaro che viene dal 5 per 1000. Sì. Però lì va un po' sfortita l'elenco degli assegnatari, di chi contribuisce le 5 per 1000. Io ho un grande stima per il tennis, ma che dei circoli del tennis prendano 5 per 1000, o dei club del Fioretto abbiano 5 per 1000, oppure che i difensori del Gallo Cedrone delle Alpi siano 5 per 1000, beh, insomma, viva Dio, insomma, capisco, con tutto rispetto per il tennis, per i Galli Cedrone, però insomma. Quindi lei dice un po' di risorse si potrebbero recuperare, visto che abbiamo anche a cuore l'equilibrio dei conti, nel indicare delle finalità più precisamente sociali per il terzo settore rispetto alla lunga lista di invece associazioni che portano a casa gli incentivi del 5 per 1000. E questa è un'idea concreta. Tanto per questo sì, direi una roba. L'altra idea concreta che proponeva Gussetti, dice, mettiamoli nel fare un housing sociale che moltiplichi i suoi numeri. Beh, per esempio, sta roba qui, l'housing sociale è stato inventato alla Fondazione Carico, devo dire, l'abbiamo inventato noi. Lo facciamo, i nostri conti sono in ordine. Se possiamo essere titolari, non caro, facciamo un'altra associazione, quello che si vuole, la Casa dei Depositi e Prestiti, nomini, faccia un fondo adeguato e poi io c'è il mio consigliere delegato, quello che il dottor Urbani, che è uno straordinario e operativo costruttore di case, e facciamo così, no? Ecco, in questo senso allora lo Stato depista il finanziamento che avremo di meno da un'altra parte, però diamo una risposta sociale imponente, forte, di giovani coppie che si mettono insieme. Io poi chiedo sempre a loro qualcosa, una premessa: io vi accetto, vi do la casa e poi voi dovete accettare di fare cortile, di essere insieme per l'acquistare, per gli acquisti, per le cure. E questi giovani sono entusiasti, adesso dopo un anno di vita sono assolutamente contenti dell'essere diventati un gruppo di gente che fa tante cose insieme, che risparmia tempo e soldi e così via. Ci sono imprese, vogliamo toglierci 30 milioni, mettiamoli tutti lì, per la Lombardia, ma anche per il Lazio, mica soltanto per noi, certo. non facciamo gli egoisti, ma mettiamoli, ecco, per esempio è una maniera per utilizzare le fondazioni, potrebbe essere anche questa, per dire, no? Certamente. Io ricordo a chi è in ascolto, per esempio a qualcuno non sarà sfuggito che nelle ultime puntate di Report, mi sembra due puntate fa, c'era un servizio sul fatto che i fondi del 5 per 1000, a proposito dell'elenco di soggetti non propriamente titolati per aver detto quei fondi del 5 per 1000, appena citato da Don Gino Rigoldi, si citava l'esempio a Napoli di fondi del 5 per 1000 che servivano per sostenere tornei di videogames, tanto per essere chiari. Quindi è conclamato che, come sempre in Italia, quando abbiamo una cosa buona riusciamo anche a farne poi un pezzo cattiva. Però basta rivedere, e quelle cifre servono a diminuire l'aggravio fiscale che oggi invece ricade sulla testa di chi davvero nel sociale si dà da fare. Altri ascoltatori mandano gli sms dicendo sì, ma Renzi da qualche parte dovrà pur tagliare, e figuratevi se dovete dirlo a me. Per esempio, no, voglio dire, le proposte di Cottarelli da aprile, vogliamo ricordare le 10.000 partecipate locali che per tre quarti sono in perdita, di primo livello, che da aprile sapevamo perfettamente con i testi già scritti come intervenire e con quali risparmi di 3 miliardi ogni anno per tre anni, e così via. Cioè, nell'organizzazione della politica si può fare efficienza senza tagliare né al terzo settore né buttare gente per strada. E certo, il problema è che nelle partecipate nei CDA ci sono i signori dei politici, è un po' diverso. Comunque, speriamo che l'appello di Don Gino Rigoldi e di tutto il terzo settore venga ascoltato al Senato e che davvero questa cosa cambi, perché l'Italia ha bisogno di tantissimi Gino Rigoldi. Continuate a guardare 24, appuntamento con me a domani. La versione di Oscar.